Voglio dirti che te, voglio dirti che tu sei la vita e colori, sei la luce, sei l'ombra di questo povero cuore. Musa mia dolce, mio splendido amore. Ancora ed ancora voglio dirti che t'amo, quando l'alba si infiamma di un mondo si sveglia, quando il giorno si spegne e la notte ritorna. Ancora ed ancora voglio dirti che t'amo, ancora ed ancora voglio dirti ti amo. Da solo qui a piangere il tempo e mi dici che questo non è più il tuo sogno, e così fra di noi resta solo il silenzio. Ma ancora ed ancora voglio dirti che t'amo, ma ancora ed ancora voglio dirti ti amo. Quando il giorno si spegne e la notte ritorna, ancora ed ancora voglio dirti che t'amo,